questo avviene. Cioè, io ignoravo l'esistenza persino di un istituto pontificio di studi arabi ai quali sono arrivato in contatto, al quale sono arrivato in contatto proprio per l'esigenza che noi sentivamo da parte del nostro istituto nel contesto di questa collana di incontri sui diritti dell'uomo, perché volevamo fin dall'inizio nel nostro programma inserire una considerazione sui diritti dell'uomo nel mondo arabo. Voi ricordate che il rabbino di Temi ha tenuto in questa sala una relazione sui diritti dell'uomo nel mondo religioso dell'antico Israele, vero? E restava ancora aperto questo tema, vero, che si accosta alla visione che dei diritti dell'uomo ha il mondo islamico. Nel frattempo, senza che noi lo potessimo programmare, senza dubbio, non toccava a noi programmarlo, la questione dei diritti dell'uomo nel mondo islamico è balzata alla ribalta della notorietà, molto di più di quello che si poteva pensare, anche a seguito delle ultime vicende in Iran e dei programmi politico-religiosi che sono stati messi a fuoco. E doppiamente perciò ringrazio il padre Bormans della sua presenza oggi, che gli costa un certo sacrificio, ma che spero anche possa dargli la soddisfazione di un contatto col nostro istituto e col mondo culturale trentino, che non si limita a questo istante, ma che può proseguire anche con un ricordo secondo e proficuo. Dico subito che egli è disposto, anzi sarà ben lieto, di ascoltare, di rispondere ai più vari interventi che voi desiderate di fare, vero, sia appunto sul tema, vedo qui il Corano messo sul tavolo davanti a noi, sia anche sulle contingenze pratiche, vero, su quei punti che forse l'attualità oggi a noi in vario modo suggerisce. E auguro che ciò una buona serata. Grazie. I diritti dell'uomo nel mondo religioso dell'Islam. Un argomento così ampio che mi sento umilissimo davanti a questo mondo e soprattutto alla sua storia e alle varie modalità di realizzazione della sua civiltà. Perciò mi accontenterò stasera di centrare un po' l'argomento nel quadro che mi era più o meno definito dai diritti dell'uomo secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Nel mese di marzo 1972 una delegazione di giuristi e di intellettuali d'Europa incontrarono a Riyadh, la capitale dell'Arabia Saudita, un gruppo di fuqaha, traduco giurisconsulti, capeggiati dal ministro della giustizia, lo sceicco Mohammed al-Harkam. E in ottobre 1974 toccava agli saudiani di visitare Roma, Parigi, Ginevra e Strasburgo per continuare questi scambi e sviluppare il dialogo attorno ai diritti dell'uomo. Tutti sanno infatti che l'Arabia Saudita non ha ancora firmato la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e dunque non ha aderito al patto internazionale che regge i diritti economici, sociali e culturali. Perché lo dovrebbe fare, dicono gli esperti di Riyadh? Non basta forse la legge islamica che deriva direttamente dal Corano per stabilire quali sono tutti i diritti dell'uomo? E poi, non sarebbe forse meglio parlare prima dai diritti di Dio, dato che quelli dell'uomo ne escono di conseguenza come colorati? Sembra dunque un po' strano, vedete, anzi difficile, pretendere e cercare nel mondo religioso dell'Islam di cui le fonti risalgono al VII secolo della nostra era, qualche accenno a un documento moderno di cui la redazione, sapete come me, appare essere il frutto dello sviluppo del pensiero moderno occidentale. Che significa l'espressione dei diritti dell'uomo per i musulmani? Si deve forse considerare quindi se la dichiarazione del 1948 corrisponde al contenuto della fede musulmana, oppure si conviene chiedersi qual è la dignità dell'uomo nel credo musulmano e quali sono le conseguenze giuridiche che ne derivano. Tenteremo di rispondere a questo secondo interrogativo, convinti che così facendo scopriremo più avanti una giusta risposta alla prima domanda. Tre punti dunque nella mia piccola conferenza. Primo punto, antropologia coranica e islamica. Secondo punto, antropologia musulmana e diritti dell'uomo. E terzo punto, problemi di comprensione reciproca e di dialogo dei valori. Primo punto, antropologia coranica e islamica. Il messaggio coranico trasmesso da Mohammed ai suoi discepoli, siamo all'inizio del VII secolo della nostra era, propone a tutti i musulmani, fino a oggi, un insieme di verità fondamentali sulla condizione umana e sulla destinazione ultima dell'uomo. Prima verità. L'uomo viene da Dio. Secondo il Corano, l'uomo è stato voluto liberamente da Dio, il quale, cito il Corano, ha creato l'uomo da un grumo di sangue. Di una creazione in cui intervengono le tappe successive di un'embriologia approssimativa. Dunque, umiltà delle sue origini, dato che Dio creò Adamo, cito il Corano, d'argilla secca, presa da fango nero impastato, per poi modellarlo e soffiare dentro del suo spirito. Armonia della sua costituzione fisica e morale, perché Dio, cito il Corano, l'ha armoniosamente plasmato. Certezza che questo Dio saprà esercitare di nuovo nell'ultimo giorno il suo potere di creatore per far risorgere tutti i morti a vita eterna. Seconda verità, l'uomo è stato creato per il servizio dell'Onnipotente. Dice il Corano, io non ho creato i jinn e gli uomini altro che perché mi adorassero. Lo dice Dio nel Corano. Dunque, universale signoria del Creatore che tutti gli uomini hanno riconosciuta nel cosiddetto patto della preeternità, il Mita, quando vennero interrogati, cito il Corano, non sono io il vostro Signore? Ed essi risposero sì, l'attestiamo. E perciò verrà detto loro, cito il Corano, in verità, il Dio ordina la giustizia, la beneficenza, l'amore verso i parenti, e vieta la dissolutezza e il male e la prepotenza. Egli vi ammonisce, e abbiate da meditare, osservate il patto di Dio che avete pattuito. Che siano dunque atti di culto, chiamati ibadat, o contratti da uomini, chiamati mu'amalat, tutte le imprese dell'uomo vengono così prescritte da Dio, precisate dal Corano e facilitate dalla vita comunitaria. La dignità dell'uomo risiede nell'obbedienza, ta'a, e la sottomissione islam ai decreti di Dio, anche se non viene nascosta la giustificazione e la finalità. C'è poi una terza verità. La dignità dell'uomo lo costituisce in una posizione di privilegio. in mezzo a tutte le creature. L'uomo si presenta come creato all'immagine sua oppure all'immagine di Dio. Se seguiamo qui le due interpretazioni di una famosa sentenza di Mahomet. Dio non dice forse nel Corano, cito, noi abbiamo proposto il pegno a Mana, ai cieli e alla terra e ai monti, ed essi rifiutarono di portarlo e ne ebbero paura, ma se ne caricò l'uomo. Questo pegno, secondo molti dotti, sarebbe la coscienza, la libertà, o il compito di portare il creato alla sua pienezza creata. A conferma di questo posto di privilegio viene precisato nel Corano più di 7 volte che gli angeli sono stati invitati a riconoscere questa dignità particolare dell'uomo. Dice il Corano, prostratevi avanti ad Adamo, fu detto agli angeli, e tutti si prostrarono salvo Iblis, che rifiutò, superbo. Gratuitamente Dio ha dunque deciso di onorare l'uomo e di costituirlo il suo vicario, importante questa parola. Vicario, cioè califfo, califa, califa con la. Ogni uomo musulmano sta di esserlo sulla terra. E perciò Dio ha mobilitato al suo servizio, cioè al servizio dell'uomo, tutte le energie del creato e il famoso tafsir del Corano, soggiogando a lui quel che è nei cieli e quel che è sulla terra. Quarta verità. Però l'uomo vive in un drammatico duello tra il bene e il male. Reso capace, come dice il Corano, di portare sulla terra la corruzione e di spandere il sangue, l'uomo, come risulta dall'esperienza, è stato creato debole, ingiusto e protervo, ingrato ed ogni legge ignaro, sono tutte citazioni del Corano, poiché, insomma, cito ancora il Corano, è stato creato d'impazienza. Io amo molto questa piccola espressione. E così nato contestatore e sempre esposto alle tentazioni di Satana, il sussurratore furtivo che sussurra nei cuori, come dice il Corano ancora, l'uomo viene trascinato in errore da Satana e anche dalla sua propria anima appassionata che spinge al male. Per fortuna, questa sua anima, istigatrice del peccato, si rivela anche biasimatrice e dunque capace di superare il male e di diventare serena, ritornando al suo Signore, piacente e piaciuta, dice ancora il Corano. Perciò l'umanità conosce il pluralismo, le divergenze ed il peccato che genera la divisione. E perciò ancora gli uomini hanno bisogno di un legislatore, al di sopra di ogni sbaglio, legislatore, come dice il Corano, che travia chi vuole e guida chi vuole. Mentre lo stesso Corano afferma ancora, e spesso, chi segue la retta guida lo fa a suo favore e chi si travia contro se stesso. E nessuna anima sarà caricata del peso di un'altra. Dialettica della predeterminazione divina e della piena libertà umana. Tocca allora all'uomo di agire. Dice il Corano, agite ed io vedrà le vostre azioni e le vedrà il suo messaggero e le vedranno i credenti. Infine c'è una quinta verità. L'uomo sa che il suo destino supera la morte. Istruito dal Corano che gli ripete, vile è la merce del mondo, ben migliore è l'ultima vita per chi teme il Dio, l'uomo viene così invitato di continuo a meditare il carattere effimero di tutte queste creature di cui Dio gli ha imparato i nomi e gli ha affidato l'uso. Ogni anima gusterà la morte, afferma ancora il Corano, ma conoscerà dopo essa una risurrezione, un giudizio ed una retribuzione. Così l'obbedienza terrestre verrà ricompensata mentre l'uomo finalmente potrà scoprire quel che Dio ha preparato per lui e per tutti i suoi eletti, quel mistero che occhio mai non vide, né orecchio mai udì, né mai cuore d'uomo ha potuto gustare, come dice una sentenza divina riferita da Mohammed. Le leggi terrestri sono dunque effimeri, e la sola legge di Dio sussiste in eterno. Il credente musulmano non si sente dunque predisposto a assolutizzare le leggi, costituzioni e dichiarazioni umane. Se molti di queste ultime iniziano con l'espressione nel nome del popolo, bismillah, oggi assai frequente, lui, il vero musulmano, sa benissimo che l'espressione giusta, ritenuta dai migliori, rimane quella del Corano nel nome di Dio, bismillah. Questa dunque era una piccola presentazione sintetica dell'antropologia coranica e islamica. Adesso vediamo come questa antropologia musulmana viene collegata con i diritti dell'uomo in una presentazione moderna. Alcuni stati di tradizione musulmana, ma di spirito moderno, laico o secolarizzato, hanno pienamente aderito alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e talvolta l'hanno precisato nel testo stesso delle loro costituzioni. Basta citare qui in esempio l'Algeria, la Tunisia, il Libano, eccetera. Altri stati però, come l'Arabia Saudita, non hanno voluto firmare la suddetta dichiarazione, pur essendo d'accordo presta poco sul suo contenuto e di conseguenza si sono rifiutati dunque a ratificare le convenzioni e i diversi testi d'applicazione o d'esecuzione. Questo loro ultimo rifiuto è stato spesso imitato da molti stati del primo gruppo e sarà utile vedere perché. Prima di analizzare le linee principali di concordanza, come lo sottolinea il documento saudita elaborato in 1972 e ripreso in 1974, va qui osservato che il carattere confessionalistico delle leggi attinenti allo statuto delle persone, della famiglia e dell'eredità nella stragrande maggioranza dei paesi musulmani pone più di un problema a coloro che pensano che la Dichiarazione Universale condanna ogni tipo di discriminazione tra i cittadini dello stesso paese. Cosa si può pensare della permanenza delle autonomie giuridiche e talvolta giudiziarie? Quando si parla dell'uguaglianza totale tra gli stessi cittadini, e cosa si deve dedurre dal fatto che alcuni le esigono oggi in alcuni paesi? Seguiamo dunque il documento saudita per accorgerci delle corrispondenze tra legge islamica e diritti dell'uomo, secondo la visione dell'attuale fondamentalismo musulmano. Sapete come me che l'Arabia Saudita rappresenta la tendenza riformista wahhabita che è la più fondamentalista. E gli ultimi eventi dell'Iran ci danno da pensare e sottolineano, diciamo, l'importanza di questo fondamentalismo musulmano nell'epoca attuale. Diceva dunque il loro documento: i diritti dell'uomo, secondo la legge islamica, vengono così elencati. E in questo elenco, voi lo vedrete, hanno ripreso la tematica dei diritti dell'uomo, però con illustrazioni coraniche o di tradizioni musulmane. Prima verità, dignità fondamentale della persona umana, perché il Corano dice: e noi già molto onorammo i figli d'Adamo. Seconda verità, rifiuto di ogni discriminazione per quanto riguarda questa dignità e tutti i diritti fondamentali, perché una sentenza di Mohammed dice: l'arabo non è più meritevole dal non arabo, né il bianco dal nero, almeno che si tratti di religiosità e devozione. E poi un'altra sentenza ripete: le donne sono le sorelle degli uomini. Verità numero 3, unità della famiglia umana, perché una sentenza di Mohammed dice: Dio abbraccia tutto il creato nella sollecitudine sua, e l'uomo più amato da lui è proprio quello che assicura alla famiglia umana i suoi migliori servizi. Verità numero 4, reciprocità nella conoscenza, la collaborazione e l'assistenza, perché il Corano dice ancora, è un versetto famoso: o uomini, in verità noi vi abbiamo creato da un maschio e da una femmina e abbiamo fatto di voi popoli vari e tribù, a che vi conoscete a vicenda, ma il più nobile fra di voi è colui che più teme il Dio. Il Corano dice ancora, che serve la prova: Dio non vi proibisce di agire con bontà ed equità verso coloro che non vi combattono per religione, perché Dio ama gli equamini. Verità numero 5, libertà di coscienza e interdizione di ogni genere di costrizione in materia religiosa, perché il Corano afferma, cito sempre qui il documento seudiano: non vi sia costrizione nella fede. E ancora, dice il Corano, potresti tu costringere gli uomini ad essere credenti a loro dispetto. Verità numero 6, carattere sacro dei beni altrui e della vita umana, dato che una sentenza di Mohammed ricorda: i beni e il sangue altrui sono intoccabili perché sacri. Verità numero 7, inviolabilità del domicilio, perché il Corano raccomanda: non entrate in case altrui senza aver prima chiesto il permesso. Verità numero 8, imposizione di ogni capitale a favore dei poveri e dei bisognosi, perché il Corano dice: e nei loro beni vi era sempre una parte dovuta al mendico e al povero. E qui sarebbe da fare tutto un trattato della zakat, l'elemosina legale della tradizione musulmana. Verità numero 9, garantire l'istruzione a tutti e combattere l'analfabetismo, avendo detto Mohammed in una sua sentenza: la ricerca del sapere è un obbligo per ogni musulmano ed ogni musulmana, affermazione che riassume tutto l'insegnamento del Corano in materia. Verità numero 10, sanzioni contro coloro che rifiutano di studiare o insegnare. E sempre a causa di un'altra sentenza del profeta dell'Islam: chi non cerca il sapere o non lo vuol dare sarà castigato. Verità 11, protezione della sanità pubblica, raccomandata da sentenze profetiche in materia, che costringono dunque a fronteggiare le epidemie dovunque si sviluppino. E finalmente verità numero 12, rifiuto di tutte le discriminazioni tra i popoli e le nazioni, dato che il Corano dice ancora: state ritti innanzi a Dio come testimoni d'equità e non vi induca l'odio contro gente empia ad agire ingiustamente. Agite con giustizia, che questa è la cosa più vicina alla pietà, e temete Dio, poiché Dio sa quel che voi fate. Il documento saudita si conclude così. Risulta di tutti questi principi della legislazione musulmana che l'Islam dà un'importanza primordiale ai diritti fondamentali dell'uomo e cura estremamente i suoi diritti economici, sociali e culturali. L'Islam non ne fa la materia di auguri leggeri o omelie sentimentali. Per lui sono prescrizioni, anzi ordini divini. Alcuni testi legislativi vengono a precisarli nei loro particolari. È chiaro che né la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, né il Patto Internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali si presentano in forma così categorica. Sono semplici raccomandazioni morali, senza nessun peso giuridico, per garantirne l'esecuzione nel campo internazionale o nazionale. Perciò, il Regno d'Arabia Saudita, per superare questo modo di semplici raccomandazioni, continuerà ad affermare, difendere e garantire questi diritti secondo le esigenze del dogma musulmano. La citazione è finita. Il documento saudita aggiunge nella seconda parte che la suddetta dichiarazione non coincide totalmente con l'insieme della visione musulmana wahhabita. Ci sono dunque delle riserve che giustificano l'atteggiamento descritto prima. Infatti, l'Arabia Saudita rifiuta di dare il suo assenso all'articolo 8 del patto internazionale che riconosce, ecco l'articolo 8, il diritto di costituire sindacati e di ricorrere allo sciopero. Dunque l'Arabia Saudita rifiuta di dare il suo assenso a quest'articolo perché essa stima che sia già garantito ai suoi lavoratori il loro benessere tramite i codici del lavoro e della sicurezza sociale. Ma le due altre riserve appaiono significative delle divergenze di mentalità e soprattutto di orientamento giuridico. Viene rifiutato l'articolo 16 della suddetta dichiarazione che stipula, cito la traduzione italiana di questo articolo: raggiunta la loro pubertà, l'uomo e la donna hanno il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia, al di fuori di ogni discriminazione, che sia di razza, di cittadinanza o di religione. Qui si deve sapere che l'Islam vieta al musulmano ogni matrimonio con una donna credente, come rimane impossibile per la donna musulmana di pensare a qualsiasi matrimonio con un non musulmano. I saudiani giustificano tale limitazione, che deriva dal Corano, a nome del bene comune delle famiglie, della loro stabilità e della loro unità, perché, riassunto qui il loro spiegare, La disparità di religione e la debolezza del carattere femminile costituirebbero dei pericoli insormontabili per la pace duratura delle famiglie. D'altronde, l'articolo 18 della Dichiarazione Universale garantisce un diritto che la legislazione musulmana non può condividere nel suo insieme. Non dice forse questo articolo? Cito adesso. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Questo diritto implica la libertà di cambiare religione o convinzione, nonché quella di manifestare la religione propria o la convinzione propria, da solo o in gruppo, in pubblico o in privato, tramite l'insegnamento, gli atti personali, il culto e l'osservazione dei riti. Infatti, la legge islamica, pur rispettando il diritto di ogni uomo a seguire, praticare ed affermare la sua propria fede, e tutte le costituzioni musulmane contemporanee lo garantiscono, desidera, cito qui il testo dei saudiani, desidera proteggere il libero accesso all'Islam a coloro che credono senza ipocrisia e il loro mantenimento nella nuova fede senza pericolo di apostasia. Perciò viene proibito al musulmano l'abbandono del suo Islam e prevista perciò una pesante sanzione penale e tutto lo statuto della ridda. Così, secondo il documento saudita, la serietà rimanerebbe la regola in materia religiosa. L'osservatore imparziale, o che tenta di esserlo, perché non lo siamo mai 100%, deve dunque constatare che il legislatore saudiano contemporaneo rimane fedele a tutta la sua visione islamica dei diritti dell'uomo, con una gerarchia piramidale tra i cittadini della dimora dell'Islam, tale quale venne elaborata dai grandi fondatori del fiqh classico e realizzato pian piano nelle attuazioni concrete dei regni o degli imperi musulmani della storia. Il testo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo viene allora adottato in quanto corrispondente a questa visione, oppure interpretato o rifiutato in quanto divergente o contrastante ad essa. Si pone allora la domanda: questo atteggiamento saudiano rimane marginale o anormale? Pur, lo faccio notare qui, pur essendo quello dei protettori dei luoghi santi dell'Islam, dove ogni anno 1 milione di pellegrini si incontrano. Si pone dunque la domanda: questo atteggiamento saudiano rimane marginale o anormale nel mondo arabo musulmano contemporaneo, oppure rappresenta, in forma radicale e dura, un apprezzamento comune a quasi tutti i paesi musulmani di oggi? Rispondere unitariamente a tale domanda pare molto difficile, dato la diversità dei popoli, la varietà delle culture e le divergenze delle scuole o ideologie musulmane classiche o moderne. Però bisogna tentare una prima risposta. Ecco adesso il terzo e ultimo punto della mia relazione: problemi di comprensione reciproca e di dialogo dei valori. Un insieme di osservazioni vengono fatte per chiarire le dimensioni del problema. Questo rifiuto del legislatore saudiano nei confronti degli articoli 16 e 18 corrisponde all'atteggiamento di quasi tutti i paesi arabo-musulmani contemporanei. Dappertutto viene vietato dalla legge o dalle circolari amministrative o dalla pratica burocratica il matrimonio della musulmana con il non musulmano, pur essendo costui cittadino dello stesso paese, come viene proibito la conversione del musulmano ad un'altra religione. Manca qui il tempo per citare in sede tutti i testi e gli atti in proposito. Poi, non tutti i paesi hanno pensato a codificare le loro disposizioni giuridiche in materia di statuto personale, di famiglia, di eredità e di opere pie. È importante qui sottolineare questo fatto, una forma di allergia alla codificazione. Infine, rarissimi sono i governi che hanno aderito alla convenzione d'applicazione. Soprattutto queste convenzioni che promuovono i diritti della donna, ricordate le tre convenzioni di New York per i diritti politici della donna, 1952, per la cittadinanza della donna sposata, 57, e poi soprattutto la terza convenzione di New York sul consenso al matrimonio, l'età minima e la registrazione del matrimonio. I conflitti dunque non mancano di sorgere ogni giorno nella vita quotidiana della gente, tanto più che il diritto internazionale privato interviene spesso a causa delle relazioni sempre più intime e complicate tra i popoli, le culture e le economie. Basta pensare, è un esempio, al numero crescente dei matrimoni misti e a tutti i problemi che ne derivano. Da parte loro, molti paesi musulmani contemporanei pensano che la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo rimane troppo influenzata dall'ideologia europeo-occidentale, la quale è di tradizione cristiana. Come ve l'ho detto, questi paesi conoscono finora una certa allergia ad ogni forma di codificazione che renderebbe umana è troppo fenomenologica l'interpretazione di una legge islamica che viene considerata da loro divina e che lo dovrebbe rimanere. È proprio qui che vengono allo scontro frontale i musulmani fondamentalisti e i musulmani liberali nel valutare il positivo dei valori moderni, della secolarizzazione o, direi, del individualizzazione del diritto. Problemi complessi che si riflettono in tutti i settori e bisogna ricordare l'altro principio del diritto internazionale privato, quello dell'ordine pubblico. Ogni paese, pur sapendo benissimo che i testi e le convenzioni internazionali hanno il sopravvento sulle leggi locali, tutti i paesi pensano giustamente che il bene pubblico del loro paese, cioè l'antropologia fondamentale che viene espressa dalla religione, dalle ideologie e dalla cultura, costituisce un ordine di valori da difendere e promuovere, e spesso al nome dell'autenticità nazionale. Voi sapete, è una parola chiave oggi nel terzo mondo, l'autenticità. E questo nonostante le esigenze internazionali di valori superiori, ma estranei più o meno alla propria tradizione. Si può dunque legittimamente porsi la domanda: qual è il grado di comprensione reciproca tra una dichiarazione universale che al suo tempo fu l'espressione dell'ultima tappa dello sviluppo del pensiero occidentale in materia di dichiarazioni dei diritti dell'uomo, ricordiamo, 2 secoli di storia, se non più. Dunque, uno sviluppo del pensiero occidentale, giuridico, metafisico e religioso, sulla condizione umana, i diritti dell'uomo e, dall'altro, tra la visione musulmana dello stesso uomo e degli stessi diritti, sviluppatasi in un altro contesto storico e culturale. Avvicinamento? Certamente. Comprensione totale? Non ancora. Avverrà un giorno? Non si sa. Ma chi deve adattarsi all'altro? Ecco la domanda. Siamo proprio alla crocevia dell'intercomprensione attuale delle civiltà, delle religioni e delle antropologie che vi sottostanno. Esse sono diverse oppure divergenti, ma l'uomo moderno, dovunque svolge il suo destino, che sia europeo, americano, africano, asiatico, cristiano o musulmano, l'uomo moderno, dovunque svolge il suo destino, conosce ormai le stesse condizioni economiche, sociali, giuridiche e culturali di vita quotidiana. Non tende forse il nostro mondo attuale ad una unificazione dei valori e dunque della loro espressione giuridica? Rimane soltanto la conclusione. 2 minuti di pazienza ancora. Vedete dunque, come l'abbiamo visto, l'antropologia coranica e l'organizzazione islamica hanno impostato i diritti dell'uomo in una visione teocentrica della città terrestre, in cui l'uomo è testimone e vicario di Dio e, di conseguenza, soggetto di doveri e di diritti. Si può pensare, a partire dai punti salienti qui esposti brevemente, che l'Islam, come il cristianesimo, riconosce all'uomo quasi tutti i diritti che vengono elencati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Se alcuni conflitti testimoniano di una mancanza di comprensione reciproca e di un difficile dialogo nei riguardi di alcuni valori, non è forse perché l'Islam e il cristianesimo hanno conosciuto degli sviluppi molto diversi nella storia, caratterizzati da scelte particolarizzanti. Le nazioni di tradizione cristiana hanno imparato, mi sembra, ben presto dai teologi, come dai loro padri nella fede, a meditare sulla legge naturale e sulle sue implicazioni giuridiche, considerando giustamente che il Creatore ha iscritto questa legge naturale nei cuori degli uomini e nel contesto globale di tutto il creato. Tocca allora all'intelligenza umana, con l'aiuto dello Spirito di Dio, a far emergere questa legge naturale, perché è già una legge progettata da Dio. Le nazioni di tradizione musulmana, per conto loro, sono state ben presto abituate a rispettare ed applicare una legge positiva divina, uniforme e definitiva, di cui l'espressione perfetta viene fatta dal Corano, dalla tradizione sunna, cioè l'insieme delle sentenze di Mohammed, e dal consensus dei dottori e giurisconsulti. Si può capire allora perché l'elaborazione o l'accettazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo sia ricevuta diversamente in tali contesti diversi. Sottostanno di seguito l'arduo problema delle fonti del diritto e quello altrettanto delicato di chi dà le garanzie ultime della sua equità. Inoltre, quando il disegno musulmano di civilizzazione si confonde con una legge trasstorica. C'è il pericolo di costruire una gerarchia di soggetti di diritto e di escludere, o almeno emarginare, alcuni uomini perché sono miscredenti, per esempio. Certo, una retta visione teologica potrebbe conceder loro tutti i diritti fondamentali, almeno per quanto sono dei credenti potenziali. Ma non sembra che questa generosità sia mai stata espressa in modo duraturo. Per tutto questo, si capisce che i paesi musulmani possano oggi riconoscere quasi tutti i diritti economici, sociali e politici a tutti i cittadini, rispetto al difficile passaggio dalla teoria alla pratica, ma questo vale per tutti, pur mantenendo un atteggiamento tipico, originale, nei riguardi di alcuni diritti più attinenti alla libertà e alla coscienza dell'uomo. Ma dialogando sempre di più su tutti questi valori e portando avanti una collaborazione efficace nel campo culturale e giuridico, si può forse sperare che domani la comprensione sia più profonda e la comune umanizzazione del diritto più completa e giusta. Grazie. Sento il dovere di ringraziare subito a nome vostro di questa relazione che è stata, mi pare, molto concentrata, molto chiara sulla concisione, vero? E anche, vantaggio non ultimo, ridotta in una proporzione che consente una riflessione di sintesi. Molte cose si hanno stimolato di fare strada facendo. Io ho avuto la sensazione che questo discorso col mondo religioso dell'Islam, nella serie delle riflessioni che abbiamo fatto, ecco, ha contribuito a darci la sensazione della densità, del peso vero dei diritti dell'uomo e del mondo che li contiene, come l'ultima conferenza che abbiamo sentito ed è stata fondamentale sui diritti dell'uomo nel Nuovo Testamento, cioè un ancoraggio religioso di tutta questa problematica, credo dia una sensazione di peso e di densità, di valore vero, di dimensione infinita di questi diritti che nessuna riflessione filosofica pura riesce a darci. Naturalmente abbiamo avuto occasione di confrontarci con un mondo dell'Islam che forse è molto diverso da quello che tradizionalmente, in modo spicciolo, le nostre scuole ci presentavano, e anche questo è stato estremamente stimolante. Noi sentiamo in questo lo sforzo poderoso che in certi ambienti si sta facendo per un vero dialogo, per un'autentica apertura di ecumenismo. E ne intravediamo anche i vantaggi fortissimi che da una simile visione più positiva di quel mondo ne vengono anche per lo stesso nostro mondo religioso. Ho ammirato poi la concretezza, la capacità di giungere all'attualità giuridica, alla situazione attuale che è prodotta da tutto questo mondo religioso tanto diverso dal nostro. Credo non manchi il tempo, non manchi il campo, non manchi argomento per le domande più svariate. Può essere soltanto l'imbarazzo a formularle e credo nessuno deve avere inibizione qui a fare delle domande molto, molto particolareggiate, se crede, molto marginali anche se crede, no, ma vogliamo approfittarne dell'occasione per colloquiare un po' su questo mondo, questo complesso così vario, così ampio di testo. Ecco già. Lei ha parlato della sicurezza, ha parlato della sicurezza, però l'azione è stata subita che viene portata dal rito è stato poi ripreso sia la creatura da sotto il maschio originale presente citata. Qual è oggi la posizione degli umanistici? Grazie. No, io personalmente penso che nel discorso di oggi gli sciiti dell'Ayatollah, cioè nel segno di Dio, Khomeini, sarebbero molto d'accordo con le dichiarazioni della delegazione saudiana, cioè che una visione fondamentalistica di ristrutturazione della società, riprendendo diciamo, i grandi principi dei padri della fede, pur dando nella visione sciita e anche quella zaidita dello Yemen un approccio più razionalistico alle cose. Tant'è vero che in un manuale teologico sciita non c'è soltanto il Naql, la tradizione, c'è anche il Aql e soprattutto il Nawar, cioè la riflessione. Però vedete, mi sembra che ciò che stupisce spesso in questi discorsi dialogici sui diritti dell'uomo è che negli incontri che noi abbiamo avuto a Roma, perché ci stavo io quando sono venuti a Roma questi sceichi dell'Arabia Saudita e per due giorni hanno potuto ascoltare relazioni di esponenti di tutti i settori del pensiero cattolico internazionale di Roma, Monsignor Lalonde, al nome della Commissione Giustizia et Pax, eccetera. Da parte cristiana spesso si fa un discorso che talvolta raggiunge un livello razionalistico. Da parte musulmana spesso è un insieme di citazioni, citazioni del Corano, citazioni del hadith, della tradizione autentica musulmana. E non si pensa tanto a ragionare partendo da principi filosofici coerenti, che forse secondo loro potrebbero dipendere da una cultura troppo precisa. Speriamo che nell'Iran di domani i diritti dell'uomo verranno rispettati un po' di più. Era in dicembre 77 a Roma, ero presente all'incontro del cardinale Pignedoli e di una piccola delegazione capeggiata dal professor Hossein Nosr, che è capo della sezione filosofia a Teheran. Abbiamo tentato di toccare l'argomento dei diritti dell'uomo. Era un po' scottante, lei intuisce, ma abbiamo capito subito che era fuori programma. D'altra parte, spesso, indirettamente o direttamente, ci ha fatto capire che nella società musulmana il miscredente non ha diritti. Ha diritti il credente musulmano ha tutti i diritti, il credente cristiano, ebreo, ha un insieme di diritti, quasi tutti, tranne alcuni, pochissimi, non ha il diritto di far sì che un musulmano diventa cristiano, però il miscredente non ha, sembra, molti diritti. Abbiamo tentato di ficare, diciamo, le cose, dicendo, ma almeno un miscredente è un credente potenziale, e come tale viene chiamato, no, ragioniamo un pochino, come tale viene chiamato a gioire di tutti i diritti, ma era molto difficile. E credo che quando tutta una tradizione viene così, dopo tanti secoli, collegata con una visione del diritto che è soprattutto attaccata al testo di una legge positiva divina, è più difficile. più difficile di aprirsi a altre esigenze e direi valori rinnovati, perché i valori sono sempre gli stessi, però rinnovati nell'espressione, nell'intendimento giuridico e nel trattarli economicamente. Sì. E proprio per questo, vedete, da noi non andremo mai a finire subito nel Vangelo per citare un testo giuridico, però spesso nel campo musulmano si riferisce al Corano, perché il Corano è anche un codice della famiglia, è anche una legge in materia di eredità, cioè è anche, diciamo, un diritto canonico, come è anche un piccolo insieme di rubriche liturgiche. C'è tutto questo nel Corano. Se lei mi vuole vedere sviluppare l'argomento della donna nel Corano, io gli chiedo almeno un quarto d'ora di pazienza, perché è troppo. Posso dire, diciamo in sintesi, la visione classica di tutti i nostri dotti musulmani, ripresa dai dotti contemporanei delle facoltà di teologia musulmana, penso a quella di Tunisi, è quella fondamentalmente l'uomini e la donna sono uguali al 100%, dato che per il culto hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi. L'uomo come la donna devono pregare, debbono digiunare, fare il pellegrinaggio, dare la zakat, eccetera. E c'è qui un versetto del Corano che è molto importante, perché sottolinea questa uguaglianza che io chiamo teologica fondamentale. È la sura 33, versetto 35, se qualcuno ha mai riferimenti. 33, 35. In verità, i dati a Dio e le date a Dio, è la traduzione di Pausani per i musulmani e le musulmane. Chi si dà a Dio? I credenti e le credenti, i devoti e le devote, i sinceri e le sincere, i pazienti e le pazienti, gli umili e le umili, i donatori delle elemosine e le donatrici, i digiunanti e le digiunanti, e così, i casti e le caste, gli oranti spesso e le oranti. Vedete, partendo da questo versetto, i nostri dotti dicono dunque uguaglianza perfetta davanti a Dio quando si tratta del culto e degli impegni fondamentali, diciamo, del decalogo, tutti uguali. Però, poi, dato che la condizione della donna non è simile a quella dell'uomo per tante motivazioni fisiologiche, sociologiche, tradizionali, allora c'è una sistemazione diversa. In breve, io potrei dire questo: i versetti giuridici del Corano che trattano del diritto della famiglia sembrano di essere il riflesso. Io adesso parlo da cristiano. Per un musulmano è ovvio, tutto questo discende dal cielo direttamente, senza interferenza umana, e dunque è da applicare alla lettera. È per questo che tutti i nostri codici moderni dei paesi musulmani, nel redare il capitolo dell'eredità, non fanno che ripetere i versetti del Corano, perché sono intoccabili, e soprattutto questo livello, l'uomo ha sempre il doppio della frazione della donna. E questo non potrebbe mai cambiare. Però possiamo dire che l'insieme di questi versetti giuridici in materia di diritto della famiglia nel Corano provengono da due origini, diciamo, la tradizione più o meno beduina, il diritto delle tribù, della penisola arabica, naturalmente marchiato da un agnatismo fondamentale e assoluto. L'uomo ha tutti i diritti, la donna non ha neanche il più piccolo diritto. Però, convergenza di un altro diritto che stava, credo, crescendo all'epoca della nascita e dell'apostolato di Maometto, un diritto commerciale delle città e delle oasi della penisola. Ricordate, non è per caso che la prima moglie di Maometto, Khadija, più anziana di lui, era, diciamo, nella direzione di un'impresa di import-export dell'epoca, no? Mandava carovane in Siria e nello Yemen, era una donna. Questo significa che nel mondo del commercio delle città la donna aveva un posto di rilievo, almeno economico. E non è per caso, credo, che Maometto, finché lui è stato lo sposo di Khadija, non ha mai preso un'altra moglie. Beh, questo significa che abbiamo la convergenza di due tradizioni più o meno giuridiche, e questo ci permette di capire che Maometto ha tentato, io mi metto al posto della visione musulmana, bisogna capire l'altro dal di dentro, Maometto ha tentato di limitare un pochino l'assolutismo agnatico del diritto beduino, ha ridotto le dimensioni del permesso della poligamia a 4, ha ridotto l'uso assoluto del ripudio, dicendo al marito che ripudia, bene, però il matrimonio non è sciolto subito, hai 3 mesi per riflettere, meditare e casomai riprendere la moglie. Dunque, matrimonio sospeso ma non sciolto, sciolto dopo 3 mesi soltanto. Dunque, un insieme di cose che hanno permesso così una promozione, la prima promozione della condizione giuridica della donna. Anche alcune donne del nucleo familiare, la vedova, le figlie, le sorelle, la madre, possono intervenire nell'eredità. Prima non era possibile. Però il dramma è che questo progresso coranico, diciamo, dall'inizio del VII secolo, canonizzato, trascendentalizzato, diciamo, è diventato ormai una roba che non è più storica e che dovrebbe dunque applicarsi dappertutto, dovunque, perché mi dicono i miei amici musulmani, almeno quelli fondamentalisti, questa legge è valida per sempre e dovunque, perché procede da Dio. Non parlo dei musulmani liberali, ma quelli liberali sono in una posizione molto difficile, perché prendono loro il nostro ragionamento. Però è molto difficile per loro dialogare con il loro fondamentalismo. 3 volte nell'anno della donna, 75, 3 volte un testo di legge è stato preparato e era pronto alla pubblicazione sulla scrivania del presidente Bourguiba a Tunisi, che dava in materia di eredità alla donna stessa frazione dell'uomo, e voleva così portare al punto finale Bourguiba tutte le sue riforme in materia dello sviluppo della condizione femminile. 3 volte il testo era pronto, 3 volte è stato un attimo. Penso di aver risposto brevemente alla domanda. Sì. Curato ci può essere un nuovo testamento del paradiso. Se noi pensiamo che anche l'antica alleanza aveva riguardo ai diritti dell'uomo, qualcosa che ci fa dire, purtroppo perché è legata alle mentalità tipiche di 3.000 anni fa, è possibile che nel Corano ci sia Ecco il problema, il Corano non ha il libro anteriore, c'è la Torah, il Pentateuco, c'è il Vangelo, ci sono i Salmi, però secondo la tradizione musulmana questi 3 libri non sono quelli degli ebrei e dei cristiani, Allora, il problema è l'interpretazione del testo del Corano. Naturalmente qui abbiamo tante scuole, però da parte del corpo teologico e giuridico religioso, perché va insieme, non si vedono e non si intravedono possibilità di cambiamento. Finora tutte le riforme in materia giuridica, nel diritto della famiglia, nel diritto del fanciullo, nel diritto dell'eredità, tutto questo è stato portato avanti, seguito e realizzato da questi musulmani che noi possiamo chiamare laici o liberali, modernisti. Sono musulmani, però interpretano a modo loro. Un mio amico, che è il professore Sharfi Abdel Mohammed, professore di diritto alla facoltà di diritto di Tunisi, direttore della Revue Tunisienne de Droit, è venuto da noi a Roma a fare una serie di lezioni con il professore invitato. Mi disse lui, capisci, per me bisogna interpretare dinamicamente il Corano. È così che io giustifico, diceva lui, questa riforma tunisina, cioè l'abrogazione della poligamia possibile. Ormai in Tunisia monogamia assoluta. E ogni volta che interviene un secondo matrimonio, mentre il primo non è sciolto, il pubblico ministero interviene. Lui mi dice, capisci, per me il Corano ha voluto limitare la poligamia, voleva andare più avanti, voleva promuovere la monogamia, però Maometto, dato il contesto storico della società della sua epoca, non ha potuto portare fino al punto ultimo la sua riforma. Però io faccio questa lettura: il Corano, facendo passare il permesso poligamico da un numero infinito di donne a 4, poi con una condizione di equità nel trattare tutte le 4, significa che il Corano è un progetto. Questo progetto bisogna portarlo, fino alla fine. Questa è un'interpretazione di tipo liberalistica che non viene ritenuta nelle facoltà di teologia musulmana e dunque di diritto religioso. E viene quello lì accusato di tradimento nei confronti della tradizione autentica. E questo è il dramma. E poi questa allergia, la codificazione che ho accennato prima, è importante. Molti paesi musulmani attualmente non hanno un diritto della famiglia. L'Algeria, che sta all'avanguardia dei popoli africani, non ha ancora un codice della famiglia. Aveva delle leggi parziali, sia dal tempo francese sia dal tempo della prima indipendenza, che erano state ricondotte da una piccola legge del 31 dicembre 1962. Però all'inizio dell'estate 75 questa legge che riconduceva tutto il diritto anteriore è stata cancellata, abrogata. Nello stesso momento, per il 5 luglio 75, festa dell'indipendenza, è stato promulgato il codice civile, che non dice niente in materia di famiglia, né dunque di filiazione né di eredità, e che rinvia sempre al codice della famiglia, che aspettiamo ancora. Il che significa, in Algeria oggi si applica la tradizione, tra virgolette, con le diverse scuole interpretative della giurisprudenza. Chi è moderno interpreterà un po' a modo filo-francese o filo-tunisino, chi è tradizionalistico interpreterà le cose a modo filo-saudiano o filo-marrocchino. Il permesso della poligamia rimane valido in Algeria come nel Libano. Allora, una rilettura giuridica del Corano significa una rilettura teologica nello stesso momento. Intravedete subito il pericolo. È un problema grossissimo. E dato che l'Islam si è sviluppato purtroppo finora nel senso letteralistico della lettura del Corano, non si vede bene come potrebbero adesso tentare uno sviluppo. Come l'ha accennato il professore prima, i mu'taziliti avevano le chiavi dello sviluppo intellettuale e dell'evoluzione musulmana. Avevano le chiavi, i mu'taziliti di Baghdad, ma sono stati combattuti e poi vinti. La scuola zaidita, che è prevalente nello Yemen del nord, anch'essa ha questa tendenza, però vediamo domani cosa dirà insieme delle leggi dello Yemen. Per il momento lo Yemen settentrionale ha codificato soltanto due cose. Come guidare sulle pochissime strade del paese. Questo è il primo codice, il codice della strada, no? Come si dice lì. No. E poi un secondo codice è quello della procedura davanti ai tribunali. C'è un progetto, lo in casa a Roma, di diritto della famiglia, ma non sembra che uscirà. L'Algeria ha tre bozze diverse di legge della famiglia. Una prima bozza, un 63, messa all'archivio, e un'altra in 76, messa all'archivio, un'altra in 73, messa in archivio. In 75 il defunto presidente Boumediene aveva promesso al mondo femminile algerino che questa famosa legge della famiglia uscirebbe prima della fine dell'anno della donna. Promesse. È complicato il problema dello sviluppo giuridico nel mondo musulmano. Volevo domandare, sì? Se non intervengono altri, in altri settori come quello dell'assistenza, ma in generale della sollecitudine per il prossimo, le norme sull'elemosina, eccetera, costituiscono una risorsa sociale e giuridica sufficiente, adeguata allo sviluppo odierno della popolazione, oppure rimangono così un ricordo lontano e facoltativo, o comunque un'usanza, un costume assolutamente insufficiente a tenere dietro al passo dello sviluppo economico, sociale di quei paesi nei tempi attuali. Gioca un ruolo l'idea, il concetto, la grandezza spirituale dell'elemosina, oppure è diventata un pio ricordo? L'elemosina legale, che si chiama la Zakat, è stata concepita dall'inizio come, diciamo, una tassa che pagava il cittadino musulmano allo Stato. Tant'è vero che il cittadino non musulmano non aveva da pagare questa zakat, aveva da pagare, diciamo, una tassa per capita, per ogni persona, e poi una tassa speciale per i terreni e le case. Questa zakat, con l'andare del tempo, si è sviluppata sotto forma di mukus, eccetera, perché il tesoro era sempre un po' vuoto. Però bisogna riconoscere che le opere pie di beneficenza si sono sempre molto sviluppate nel mondo musulmano. Tant'è vero che questo spirito di beneficenza ha potuto creare o trasferire nel mondo musulmano, perché non era previsto né dal Corano né dalla Sunna, tutto il sistema delle opere pie della tradizione cristiana. Cioè, il consacrare un terreno, una casa, un ospedale, eccetera, al servizio dei piccoli, degli orfani, dei malati, dei mendicanti. E allora tutte queste cose sono finite a costituire tutto un sistema di assistenza, con una costruzione giuridica assai originale, quella del bene Waqf nel Medio Oriente o il bene Habus nell'Africa del Nord. Cioè il proprietario diventa fittizio o è Dio che diventa proprietario dei beni. Però ben presto la famiglia musulmana, per scappare alle vicende della storia e poi per aggirare talvolta le regole un po' strane dell'eredità corranica, ha permesso che queste opere pie di beneficenza possano servire innanzitutto a beneficenza dei propri parenti, dei propri figli e figlie, anche nella scuola hanafita, anche del proprio costituente dell'opera pia. E allora, vedete, questo sistema si è sviluppato molto nel Medioevo, però oggi in molti paesi musulmani tutto questo è stato abrogato come sistema parallelo di intervento. Però bisogna dire che a sostituire questa beneficenza organizzata o giuridicamente sistemata rimane questo sforzo continuo della beneficenza personale. Io vi posso dire che nella città musulmana tradizionale, la moderna, purtroppo tutto cambia. Il mendicante è un araldo teologico. Le grida del mendicante che sta seduto alla crocevia la mattina e che fa così, tutte le sue grida sono veramente sentenze teologicamente bellissime. Al nome di chi ti ha creato e mi ha creato, dammi. Il tuo bene non è tuo, è anche mio, dammi. Giusto, tutto sommato. E poi nel mese di Ramadan bisogna riconoscere che sempre nel mondo tradizionale le opere di beneficenza si moltiplicano molto spesso. Due mesi fa stavo nello Yemen, ero a Hodeida sul Mar Rosso, mi diceva un dottore drusa di origine siriana: padre, lei non sa, tutto ciò che i commercianti della città spendono nel mese di Ramadan, raggruppano tutti questi loro benefici per dare tutto questo a una cassa speciale e poi ci vengono a trovare noi, i dottori, per dire: se casomai uno dei vostri malati ha bisogno di medicina e non può pagare, ha bisogno di mangiare, di bere, eccetera, anche di alloggio, venite da noi, mandate un bigliettino, noi paghiamo. Il mondo tradizionale è ricchissimo, diciamo, di spirito di beneficenza. La città moderna, il formicaio moderno, che sia musulmano, che sia cristiano, purtroppo diventa disumano. Ora, sì? Per l'Islam sovietico riconosco qui, non direi la mia ignoranza, però non ne sono granché. Secondo di ciò che pare, sono tutti sottomessi alle leggi dello Stato sovietico, è normale, con forse un rispetto per le moschee e le tradizioni religiose. Però bisogna ricordare, vedete, subito che una comunità musulmana, quando viene costretta a subire un insieme di leggi, che uno stato economico e culturale e politico che non corrisponde alle sue opzioni, a causa dello stato di necessità, come viene chiamato nel fiqh classico, darura, sono chiamati a sottomettersi. Però preparando la via pian piano a poter ricoverare la loro autonomia. Credo che sia lo stesso per i cittadini musulmani della Jugoslavia che ci è così vicina. Però vedete, appena la comunità musulmana potrà farsi sentire, chiedere qualche cosa, chiederà ben presto questa autonomia giuridica. Basta guardare i musulmani delle Filippine, va bene, ci sono tanti altri problemi economici, culturali, però c'è anche quello lì. Recentemente, l'anno scorso, una rappresentante di musulmani che vivono in Inghilterra diceva: perché l'Inghilterra non ci potrebbe concedere uno statuto personale musulmano in Inghilterra? Cioè, questo bisogno del musulmano, in genere, almeno quelli dell'apparato istituzionale, di riorganizzare una struttura sociale che permetta di essere coerentemente fedele a questi testi del Corano, vedete? Stanno sempre in una posizione un po' difficile. Volevo fare la domanda un po'. Sì. Cioè, quali sono i rapporti tra razzismo e credo, ma sia a livello teorico sia a livello pratico, se per un marxismo potrebbe essere. No, il marxismo come tale è un ente astratto. Cioè, ci sono dei partiti marxisti, dei paesi di ideologia marxista, e tutti quanti fanno la loro politica. Io tento prima di tutto rispondere alla domanda tale quale, cioè il marxismo come tale, cioè come ideologia generica. Vede, mi sembra che in tutti i nostri paesi, musulmani, soprattutto arabi musulmani, il marxismo rappresenta oggi la forma che ha avuto da noi in Europa l'anticlericalismo e il razionalismo. Cioè, l'unico modo di criticare l'istanza islamica che sta al potere più o meno ben vestita o travestita, il solo modo di criticarlo è di adottare il linguaggio marxista. Critica delle istituzioni, critica della società globale, naturalmente critica delle sue scelte economiche. Poi, mi disse una volta il professore Mesian, Abdelmajid insegna ad Algeria e a Tlemcen: per noi il marxismo rappresenta soltanto una prassi, è un strumento di analisi e un metodo per sviluppare l'economia e la cultura globale del paese. Non possiamo dire che per noi sia pericoloso come per voi cristiani d'Europa, faceva questa distinzione. D'altra parte, lui nello stesso momento riconosceva che c'è un vuoto ideologico tutto sommato. Allora voi avete questa situazione paradossale, al massimo. Se andate a leggere la carta nazionale dell'Algeria di Boumediene, quella che è stata discussa in pubblico dopo essere stata redatta da comitati specializzati e poi adottata dopo referendum, è un insieme di quasi 250 pagine. È un documento ufficiale, diciamo, del Partito Unico. È tutto un linguaggio marxista rivoluzionario, sia per l'analisi economica del paese, sia per l'analisi culturale del paese. Per l'Islam ci sono 2-3 pagine neanche. Però sembra che sia un discorso che venga fatto dal pianeta Venere o Saturno. Il popolo algerino non ci capisce niente, veramente niente. Allora avete questo dramma, e penso che l'Algeria lo viva al massimo, di due correnti che si scontrano a vicenda. La massa popolare che rimane fedele a tutte le sue tradizionali musulmane, e ai suoi valori, al nome dell'autenticità ricoverata dopo l'indipendenza, e appoggiando dunque i capi religiosi, e d'altra parte tutto il mondo della tecnica moderna, nazionalistico, questo mondo di linguaggio marxista, di prassi tecnocratica e interessata, se non egoistica. E poi c'è questo scontro continuo. Allora, io do, tu dai. Io ti do il permesso di arabizzare tutto il paese, ma a modo un po' antico, tu mi dai la piena libertà di gestire a modo mio l'economia del paese. È terribile come situazione. Vedete, questo marxismo esiste sotto forma di minoranze organizzate, cioè partiti, però sono minoranze. Ma le minoranze sono sempre quelle che sono chiamate a organizzare il futuro. Poi ricordate, vi ho detto una parentesi, ricordate la distanza tra teoria e pratica. Tutto ciò che vi ho detto stasera riferisce alle dichiarazioni teoriche, ufficiali. I problemi concreti, diciamo, problemi concreti per applicare tutto questo sono così immensissimi. Per noi è facile avere un passaporto, no? Fa parte dei diritti amministrativi dell'uomo. Nei nostri paesi non fa parte dei diritti quotidiani dell'uomo. Per avere il passaporto, se io sono algerino o tunisino o libico, bisogna avere, diciamo, il semaforo verde del partito. E poi, se sono donna e mi venga questa idea di andare all'estero da sola, perché? Non si fa. Passaporto? Perché? Io ho dato un piccolo dettaglio, ma ce ne sono tanti, tanti, tanti. E tutti i problemi del diritto internazionale privato. Non lo so se è soltanto un fatto religioso, credo che sia nello stesso momento politico e economico. Certo che il paragone che lei sta facendo tra Kemal Atatürk, lo Shah, e alcuni altri lo farebbero per Bourguiba nell'indomani, ci fanno rimanere molto perplessi. Fino a che limite, diciamo, un riformista di tipo laico o liberale può pretendere portare il suo popolo per non oltrepassare, diciamo, la capacità di sopportare il mutamento, non soltanto sociale e economico, ma anche dell'ideologia, dell'antropologia che sta dietro. Questo è il problema. Poi sapete che il risveglio islamico della Turchia moderna è un fatto che tutti riconoscono, cioè le riforme di Kemal Atatürk hanno potuto andare avanti, però pian piano sono state arginate. Io vorrei vedere domani, dopodomani, quando Bourguiba morirà, come verranno, diciamo, i successori ad interpretare, promuovere o ridurre la sua opera riformatrice in materia giuridica. Forse lo Shah è andato troppo avanti, a un ritmo troppo accelerato e poi con percentuali di corruzione che aveva sorpassato, diciamo, insopportabile. Però la corruzione la troviamo un po' dappertutto, non è soltanto l'Iran che la conosce. Potremmo citare tanti altri paesi, dai wahhabiti agli altri. No? Allora, bisogna riconoscere che il mondo sciita è anche speciale, e che c'è stata una orchestrazione perfetta della sensibilità popolare, perché far sì che tutto questo si svolgesse al momento proprio in cui si festeggiava il 10 di Muharram, che è proprio il colmo della liturgia sciita, perché ricorda la morte come martire di Hussein, il nepotino di Maometto, trafitto dai soldati del sunnismo di Damasco. Voi capite che c'è tutto un insieme di fattori nel mondo sciita che ci scappano. Ma certo che io vorrei augurare per l'Iran di domani di proseguire sulla strada della modernizzazione e dell'aggiornamento dei suoi diritti, ma purtroppo finora, lo so, è molto difficile fare una rivoluzione senza sangue. Però questi generali che sono stati fucilati dopo una sentenza, non si sa com'è, stata emessa. Quando si pretende di fare una rivoluzione al nome dei diritti dell'uomo, bisogna essere coerente fino in fondo, se no si travia di nuovo e si riprende la strada di prima. Però, come dicevo prima, mi sembra difficile che non sia così. Ci sono altre interrogazioni? Il dialogo è stato molto sviluppato e potrebbe anche svilupparsi più in là. Sì, sì. Oh, ma odio non c'è. Sì. E lui, questo sunnita, qual era la sua tendenza, diciamo? Era wahhabita, cioè di tipo saudiano o liberale? Liberale. Odio non posso dire, perché spesso si incontrano e anzi l'ecumenismo tra di loro è molto avanzato di solito, però certo che i sciiti sono stati sempre perseguitati nella storia dal sunnismo. D'altra parte, lo sciismo rappresenta sempre un pericolo, perché rappresenta nell'Islam il movimento dei legittimisti, se noi prendiamo un termine del vocabolario politico, rappresentano i rivendicatori dei privilegi della stirpe profetica della famiglia di Muhammad. E poi, in questo, non direi odio, ma forse lei l'ha sentito così, bisogna dire, tra arabi e persiani, forse c'è odio, ma non credo che sia per tante ragioni religiose, per tante altre ragioni. E ricordiamo che gli iraniani sono indo-europei come noi. E poi l'Iran nella storia è il solo paese ad essere stato arabizzato e ad aver distrutto dopo 2-3 secoli questa arabizzazione. e a far sì che la sua lingua d'origine, il persiano, venga rinnovata, promossa come lingua di civiltà e come lingua religiosa. Il che è un fatto unico. D'altra parte, tutte le opere bellissime della letteratura araba, del diritto, dei commenti del Corano che si sono sviluppati a Baghdad nel secondo, nel terzo secolo dell'Islam, cioè dal 750 a 950, la stramaggioranza degli autori che scrivevano allora in arabo erano persiani etnicamente, cioè di genio naturale. E forse per questo che noi abbiamo delle opere stupende. Quando leggo un commentatore arabo, musulmano, ma di espressione araba, però iraniano di origine, come il famoso Errasi, che visse all'inizio del XIII secolo, lui è nato vicino a Teheran. Il suo commento del Corano è una sintesi perfetta. Io ci trovo dei piaceri intellettuali, mentre dai commentatori di oggi, arabi, di razza e di lingua, non trovo lo stesso piacere. È un fatto che molti condividono. Dunque, ci sono i fattori storici, i fattori culturali che credo giacciono un po'. Poi, certo, lo sciismo ha sviluppato molto il culto delle tombe e degli imam, il che è una innovazione da condannare per tutti i sunniti e soprattutto il riformismo contemporaneo. Allora. Bene, se non vi dispiace dobbiamo concludere, però mi rendo conto che sul tema Islam l'Istituto di Scienze Religiose di Trento dovrà tornarci ancora, anche per l'interesse che ho visto in questa occasione, oltre che per la cultura bellissima che abbiamo avuto occasione di incontrare. Sul padre Bormans, ringraziandolo di nuovo, devo completare la mia presentazione per ricordare che egli è un olandese. No, francese, padre. Scusi. No. Francese di anagrafe. Ero tanto convinto. Arabo italiano di cuore. Tanto bene che me l'ha precisato. E che è un padre bianco. Tutto meglio. Abbiamo sentito l'amore per vista, che per i padri bianchi è una religione. E li auguriamo tanto anche per questo. Se permettete, ricordo ancora, prima che andate via, la prossima iniziativa dell'Istituto, di cui è stato diramato un piccolo programma. L'Istituto di Scienze Religiose fa venerdì prossimo, 9 marzo, una giornata di seminario su San Basilio Magno, come esponente sommo dell'umanesimo cristiano nell'antichità. Ad opera di specialisti di primissimo ordine come il padre Gripomon e altri nomi che qui vedete, è naturalmente soprattutto diretto a studenti e studiosi di scienze classiche e della grecità cristiana, ma tutti sono anche benvenuti. Grazie. E grazie per il vostro ascolto. Mi ha corretto un errore madornale perché sì? Avevo scritto un piccolo biglietto che ero dimenticato qui, ma non fa niente. Bella la vostra ora. Io ho un'altra domanda da fare. Sì.